Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, questa sera parliamo di finanza, parliamo di speculazione, ma ne parliamo sotto un profilo storico, sotto un profilo molto particolare, quello che ha affrontato e che spiega nel libro L'arte della speculazione Massimo Intropido. Buonasera Intropido. Buonasera dottor Fabio e buonasera agli ascoltatori. Massimo Intropido è analista, è formatore finanziario e partner non istituzionale di Borsa Italiana e ha scritto questo libro che appunto si intitola L'arte della speculazione, edito da Oepli, dove si parla dei segreti delle candele giapponesi dagli antichi mercanti di riso di Osaka a Wall Street. Ecco, iniziamo subito dalle candele giapponesi. Purtroppo siamo in radio, se potessimo mostrare un grafico capiremmo subito di che cosa si tratta, ma Massimo Intropido ci dice che cosa sono le candele giapponesi. Le candele giapponesi sono un modo per raffigurare l'andamento dei prezzi di borsa che prevede di disegnare dei rettangoli neri se durante la seduta il prezzo è sceso e dei rettangoli bianchi se durante la seduta il prezzo è salito. In questo modo si ha un'evidenza migliore rispetto alle tecniche grafiche occidentali del fatto appunto che durante la seduta, nel caso della discesa del prezzo, si è avuto un aumento del pessimismo o una diminuzione dell'ottimismo e il contrario per la seduta che invece ha registrato una candela bianca. Perché si chiama candela? Si chiama candela perché la differenza tra il prezzo di apertura e il prezzo di chiusura viene raffigurata con una linea singola. Voi immaginate l'effetto che una linea singola può dare se viene posta sopra un rettangolo, è appunto quella dello stoppino di una candela. Certo, ecco, quindi visivamente questi grafici riescono a dire molto di più di un grafico lineare in cui si dice solo certe quotazioni in certi momenti della giornata. C'è anche una rappresentazione, diciamo, dell'andamento complessivo e quindi della tendenza della borsa. Ma ecco, come nascono queste candele giapponesi che lei spiega appunto in questo libro? Sì, allora nascono dall'esigenza di raffigurare graficamente non solo l'andamento dei prezzi, ma anche gli insegnamenti dei maestri speculatori del riso, che erano poi gli antichi mercanti, che è un sapere vecchio di secoli. Quindi perché è migliore la candela giapponese rispetto alla rappresentazione occidentale? Perché la rappresentazione occidentale nasce per esigenze di analisi. I grafici occidentali nascono a fine dell'Ottocento negli Stati Uniti ad opera di Charles Dow, che era un analista, ex operatore di borsa, appassionato di economia, che voleva usare l'andamento di borsa per predire l'andamento dell'economia, ed Edward Jones, che era uno statistico che praticamente metteva a posto i dati che poi Dow analizzava. Sono i due fondatori della celeberrima agenzia Dow Jones che c'è tuttora oggi. Quindi l'analisi occidentale nasce per scopi di analisi. L'analisi giapponese nasce per rappresentare ciò che può essere utile per la speculazione, quindi è un modo di rappresentare i prezzi più orientato all'operatività concreta. Ecco, però lei nell'introduzione parla appunto anche dell'analisi comportamentale, della finanza comportamentale, criticando un po' queste teorie, ma in fondo rappresentare la tendenza dei mercati e quindi il sentimento degli operatori non è un po' avvicinarsi a questa finanza comportamentale? Allora, la finanza comportamentale che lei giustamente cita trova, diciamo, nella dottrina moderna il massimo del suo livello nei lavori del premio Nobel per l'economia Daniel Kahneman, sì, che spiega che ciò che noi chiamiamo finanza comportamentale in realtà è come gli esseri umani percepiscono il rischio. E quando gli esseri umani percepiscono il rischio si lasciano troppo trasportare dall'ottimismo o dal pessimismo. Questo era stato capito nell'antico Giappone e infatti le regole fondamentali della speculazione sono proprio basate sul fatto di dubitare dei sentimenti, diciamo, diffusi, quindi di dubitare dell'eccesso di ottimismo e dubitare dell'eccesso di pessimismo. Si dice negli insegnamenti che sono contenuti nel libro e che noi abbiamo preso assolutamente dai testi originali giapponesi, quelli per intenderci scritti su carta di riso, si insegna a dubitare di quello che fa la maggioranza della gente, quindi in pratica degli operatori, e si dice quando tutti vendono tu compra, certo, e quando tutti comprano tu vendi. Ecco, in questa prospettiva lei appunto si rifà a esperienze giapponesi dei secoli del 1600, del 1700, quando i mercati finanziari non c'erano ancora. In questo libro si parla appunto dei mercati del riso come elementi da cui sono nati i moderni mercati finanziari, in cui la speculazione è una parte importante, una speculazione che non sempre deve essere vista come qualcosa di negativo comunque, Massimo Intrepido. Allora, lei mi pone la domanda in una maniera estremamente interessante ed incisiva. La speculazione non necessariamente è qualcosa di negativo, però la speculazione è qualcosa che non deve mai essere presa, per così dire, sotto gamba. Quindi bisogna saperla cavalcare, ma non bisogna mai fidarsi. Cioè, in qualsiasi momento tutto può invertirsi bruscamente. Per quanto riguarda l'antico mercato del riso, pur essendo un mercato che in apparenza è così lontano da quelli moderni, bisogna ricordare che però in realtà in quel mercato nascono i primi contratti future, quindi contratti che fanno comprare e vendere oggi, ma per consegna differita, della storia. Poi bisogna ricordare che in Giappone il riso veniva utilizzato anche come moneta di scambio, quindi il mercato del riso non era solo un mercato agricolo, ma era anche un mercato monetario a tutti gli effetti. E non solo, ma negli antichi testi, in testi antichi di tre secoli, si insegna già a guardare la differenza di prezzo tra i due contratti a termine per scadenze successive. In termini moderni questa cosa si chiama struttura a termine dei mercati future, con le due classiche situazioni, cioè il contango, quando le scadenze più lontane costano di più delle scadenze più vicine, e la backwardation, quando le scadenze più lontane costano meno delle scadenze più vicine. Ecco, queste cose, che sono cose che nemmeno tutti gli addetti ai lavori sanno, in Giappone erano note più di tre secoli fa. Ecco, però deve essere stato complicato da parte di un occidentale avvicinarsi a questa realtà, non solo per la scrittura giapponese, ma anche perché è una realtà che ha molti punti di contatto, ma che in fondo è molto diversa da quella occidentale. È molto diversa da quella occidentale, ma per fortuna è molto diverso anche il modo di scrivere degli autori giapponesi, cioè non è assolutamente accademico, ma addirittura sui testi più antichi venivano le nozioni venivano tramandate sotto forma di proverbi. E quindi in realtà è di una facilità di lettura che ha stupito anche me e la dottoressa Tsuchiyashi, che oltre a essere laureata in giapponese antico è anche originaria di Osaka, quindi ha saputo sui testi antichi cogliere certe sottigliezze. Ecco, quindi ha stupito anche noi per la semplicità con cui i concetti vengono trasferiti, e vengono trasferiti in maniera semplice proprio perché sono consigli operativi. Cioè, certo, nei testi antichi si dice a un ipotetico speculatore: fai questo e non fare quello. Ecco, quindi questo libro è un libro di storia, perché parla appunto della storia della finanza, della nascita della finanza, della nascita della finanza nei mercati del riso dell'antico Giappone, ma è anche un libro di consigli finanziari, come lei diceva nell'ultima risposta, di consigli concreti sul fronte finanziario, che possono essere anche alla base di scelte operative attuali. E soprattutto questa seconda cosa, il fatto che abbia lavorato così tanto sulla parte storica è solo per far capire da dove vengono certi insegnamenti e per dare forza a questi contenuti che prescrivono dei comportamenti che sono anti-istintivi, cioè che sono il contrario di quello che uno vorrebbe fare. E allora, per far capire al lettore che si tratta di un sapere antico e valido, ho creduto che fosse giusto far vedere da dove viene e spiegare perché vengono consigliati certi comportamenti, con tanto di documentazione storica. Ecco, c'è per esempio, questo è appunto tra i documenti storici, ma alcuni saggi, alcuni possiamo dire appunto come lei diceva, quei proverbi: c'è una ragione per la discesa, ma se non è il momento non scende, se ti affetti a comprare sei molto stupido; c'è una ragione per la salita, ma se non è il momento non sale, non comprare in fretta per non pentirti. Ecco, una delle regole attuali della borsa è quella secondo cui bisogna vendere se guadagni e poi pentirti perché potevi guadagnare un po' di più. Anche in queste massime giapponesi si può ritrovare un po' di saggezza che forse i mercati finanziari negli ultimi tempi sembrano avere perso. Massimo Intrepido. Sì, assolutamente, anche perché per esigenze anche di costo molta finanza moderna è stata meccanizzata. Si parla di trading ad alta frequenza, adesso si parla di robo advisor per la consulenza, ma in realtà ci vuole sempre l'occhio umano, proprio perché la differenza tra il bravo trader e il cattivo trader la fanno due cose: la capacità di controllare l'esposizione in denaro, quindi la capacità di controllare quanto patrimonio si mette sul mercato, e questo viene prima di qualsiasi analisi tecnica e di qualsiasi analisi macroeconomica, e la seconda cosa è capire per tempo quando sta per cambiare la tendenza. Questa è una cosa che uno nella vita non impara mai del tutto a fare, ma certamente nel tempo impara sempre meglio a fare con l'esperienza e, a questo punto me lo permetta, con le buone letture, tra cui spero ci sia anche quella del mio libro. Ecco, stavo appunto per chiederle, per concludere, a chi consigliare questo libro. Sicuramente agli operatori di borsa, che potrebbero trovare il tempo per staccarsi un attimo dai loro terminali per guardare un po' alla storia, ma anche a chi ha una certa curiosità verso i mercati finanziari e vuol capire al di là appunto dei luoghi comuni come funzionano i mercati finanziari, perché funzionano appunto secondo regole che sono secolari e secondo delle scelte che poi appartengono alle persone, e le persone sono in fondo le stesse con i loro sentimenti e le loro emozioni, oltre che con la loro razionalità. Chi consiglia allora la lettura di questo libro, Massimo Intrepido? Lo consiglio soprattutto a coloro che, magari dopo aver già letto altri libri di analisi tecnica e aver avuto la sensazione che manchi qualcosa, vogliono finalmente un'opera che spieghi non solo le tecniche ma anche il perché. Poi mi sembra giusto dire chi non dovrebbe leggere il libro. Non dovrebbero leggerlo coloro che pensano che si possa in pochissimo tempo, magari in un paio di giorni di lettura veloce, imparare a fare trading. Ecco, ma queste persone in realtà non dovrebbero cercare in un libro la ricetta magica per fare trading. Per fare trading occorre studiare, occorre capire non solo cosa fare ma anche perché. Quindi ecco, può anche essere l'occasione per chi magari in passato ha letto dei libri, come dire, un po' troppo semplici, per capire che invece questo è un mestiere a cui, come dire, un mestiere, il classico mestiere che non si finisce mai di imparare. Certo, in cui forse è più facile perdere in borsa che guadagnare, ma questa è un'altra cosa, è un'altra realtà. E tra l'altro io ricordo che Massimo Intrepido è anche autore del libro Investire for Dummies, sempre della collana Oepli, dedicata appunto a chi non è pratico delle cose, vuole iniziare a capire qualcosa in questo ambito. Questo in libro invece, L'arte della speculazione, ringrazio Massimo Intrepido di essere stato con noi, è un libro di storia, un libro molto accurato, in cui si parla appunto della nascita dei mercati finanziari partendo dai mercati del riso di Osaka e Wall Street. Ricordo allora il titolo, L'arte della speculazione, edito da Oepli, sono 360 pagine per €29,90. Grazie a Massimo Intrepido di essere stato con noi questa sera, grazie a Luca Cremonese in redazione, a Pietro Bescapè in regia. L'appuntamento con Economia in Pagina per sabato prossimo.